Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Signori, ecco a voi Gigi D'Agostino. My life, got a hole in

Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Alla faccia di chi ci vuole male. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Codesta, codesta, è la musica pesta, pesta. La frequenza è codesta, codesta, è la musica pesta, pesta, pesta, pesta, pesta, pesta, pesta, pesta, pesta. Sì, sì. Alla faccia di chi ci vuole male. We'll be right back. agli altri il palo e la traversa. No, poi dicono che non riesco a fare le rime. No, vabbè, dai. Giorno alle 18. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il tuo antidepresso. Rimani connesso. Rimani connesso. Rimani connesso. M2O. Mi è venuto il momento coccolone. Avviciniamoci tutti, dai. Abbracciamoci forte.

cammino di Gigi D'Agostino. Magari più bella.